giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale nella notte sulla grande viabilità triestina. A perdere la vita un motociclista di 46 anni, residente a Bologna. 400 soci azionisti presenti all'Assemblea di Generali in Portovecchio a Trieste, ovvero oltre due terzi del capitale sociale. Rimane alla lista di Mediobanca il controllo del Leone. Un 25 aprile segnato dalla pioggia, ma poi un weekend di tempo migliore, anche se domenica arriverà la bora. Le previsioni dell'Osmer. Oltre 10 minuti di applausi per il ritorno del musical Mamma Mia al Rossetti di Trieste. Le canzoni degli ABBA, la storia resa celebre anche dal film con Meryl Streep, le atmosfere anni 70, un cast internazionale di assoluto livello. A Udine in mostra le opere di uno dei più grandi maestri del manga giapponese. A Casa Cavazzini la prima antologica in Italia di Shigeru Mizuki, la presentazione del curatore Vincenzo Filosa. 12:31 e 12 secondi, buongiorno da Daniele Lettige e Sebastiano Franco, seconda edizione del giornale che si apre con la cronaca. Un 46enne originario di Napoli e residente in provincia di Bologna ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nella notte. Viaggiava in motocicletta sulla grande viabilità triestina in direzione Muggia. Su un'altra moto c'era un'altra persona, un 28enne suo conoscente. Intorno alle 2, in corrispondenza dell'uscita numero 5 via Malaspina Caboto in direzione Muggia, ci sarebbe stato un tamponamento fra i due veicoli. Il 46enne alla guida è finito sull'asfalto, morendo sul colpo. Conseguenze meno gravi per l'altro motociclista ferito con un trauma alla spalla. Da chiarire comunque l'esatta dinamica dell'incidente e se sia stata coinvolta anche una vettura. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia stradale. E sempre nella notte c'è stato un altro incidente in moto in via Salata, sempre a Trieste, dove un 21enne si è schiantato contro la pensilina della fermata dell'autobus. Per lui vari traumi e lesioni, ma non è in gravi condizioni. Continuano le iniziative di preghiere e riflessione organizzate dalle diocesi della regione in memoria di Papa Francesco. Oggi alle 18:30 l'arcivescovo di Udine Riccardo Lamba invita ragazzi, adolescenti e giovani in cattedrale per un momento di preghiera in suffragio del Papa defunto, celebrate in comunione con i ragazzi che nelle stesse ore staranno raggiungendo Roma per partecipare al giubileo degli adolescenti. Il vescovo di Pordenone, Giuseppe Pellegrini, ha voluto ringraziare per la partecipazione numerosa non solo alla Santa Messa, in suffragio del Santo Padre Francesco, un momento di intensa preghiera e di comunione con la presenza di tanti fedeli, delle autorità civili e militari, scrive il vescovo, ma anche nelle manifestazioni di cordoglio che ci sono giunte dai rappresentanti di enti e dalle diverse comunità religiose presenti sul territorio pordenonese. Particolarmente toccante per me, scrive il vescovo, è stata la vicinanza espressa in diversi modi dalle comunità cristiane e religiose presenti nella nostra diocesi. Come esempio porto il segno di grande rispetto e sensibilità che è giunto dalla comunità Sikh, che ha scelto di spostare una propria importante celebrazione prevista per sabato 26 aprile a Pasiano di Pordenone, dove sarebbero accorse migliaia di persone, in segno di omaggio e riconoscenza verso Papa Francesco. Così conclude la nota di Monsignor Pellegrini. Lo avete sentito dai titoli, oggi è il giorno dell'assemblea degli azionisti 2025 di Generali al Generali Convention Center in Portovecchio, l'assemblea con 400 presenti che ha scelto la continuità rappresentata dalla lista dell'azionista di maggioranza, Mediobanca. Un lungo applauso dopo la vittoria della lista di Mediobanca all'assemblea degli azionisti di Generali, che ha visto il rinnovo del consiglio di amministrazione al termine di una sfida tra tre blocchi contrapposti. L'assemblea ha premiato la continuità riconfermando il gruppo dirigente uscente con Philippe Donnet, amministratore delegato, e Andrea Sironi, presidente. La prima lista ottiene il 52% delle preferenze, maggioranza assoluta dunque. Risultato importante comunque per la lista espressione di Gaetano Caltagirone, della famiglia del Vecchio, che raggiunge il 36,8% dei voti con il sostegno di Unicredit, il cui posizionamento fino a ieri era dato come incerto. A suggestioni si ferma al 3,67%, si è astenuto il gruppo Benetton. Nel suo intervento Donnet ha voluto chiarire i timori riguardanti la partnership con Natixis. La governance non sarà mai nelle mani francesi e resterà assolutamente paritetica, ha affermato, escludendo qualsiasi perdita di sovranità nei processi decisionali sugli investimenti. Una risposta ai timori del governo e degli azionisti, espressione della seconda lista. Donnet ha ribadito l'importanza di Trieste per il gruppo, ricordando che Palazzo Carciotti diventerà un centro di eccellenza dedicato all'intelligenza artificiale, rafforzando il legame storico tra la compagnia e il suo territorio d'origine. Donnet ha inoltre sottolineato i buoni risultati del gruppo, con una distribuzione di dividendi crescente nei confronti di oltre 150.000 soci, in gran parte piccoli azionisti. quella di Trieste, la prima assemblea elettiva in presenza dal periodo del Covid in poi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile sulla costa e in pianura, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 18 gradi, a Gorizia 20, a Udine 19, a Pordenone 19,5. A Tolmezzo 13, a Tarvisio 11,5, a Forni di Sopra 8, a Sappada e Piancavallo 7, sul Monte Lussari 5, sul Monte Zoncolan 6. Sulla costa a Lignano 19 gradi, a Grado 17. E siamo alle previsioni per i prossimi giorni. A un 25 aprile segnato dalla pioggia seguirà un weekend di tempo migliore, anche se domenica arriverà la bora. Ce ne dice di più il previsore dell'Osmer, Giuseppe Visalli. Per ancora le prossime ore ci attendiamo la presenza di rovesci o locali temporali che potrebbero interessare soprattutto la zona montana, ma anche la pianura. Tra pianura e costa in particolare il cielo sarà variabile, poi nuvoloso invece sulla zona montana. Temperature massime per oggi con valori fino a 23 gradi sulla pianura e 21 gradi invece sulla costa. La giornata invece di venerdì 25 aprile inizierà con un cielo coperto, con delle piogge in genere abbondanti e saranno possibili ancora dei rovesci o dei locali temporali nel corso della notte e del mattino, soprattutto verso la bassa pianura e la costa. E la quota neve sarà in calo fino ai 1500-1800 metri, appunto per il calo delle temperature. Infatti domani le temperature massime probabilmente non andranno oltre 18 gradi sulla pianura e 16 gradi sulla costa, minime invece tra 9 e 12 gradi in pianura, tra 11 e 14 gradi sulla costa. Poi invece nel corso della fine settimana la situazione tenderà a migliorare a causa dell'aumento della pressione atmosferica, tuttavia comunque saranno ancora possibili dei locali episodi di instabilità, specie nel pomeriggio sulla zona montana, dove non sono esclusi dei locali e rovesci di debole intensità. Nel corso della giornata di domenica in particolare soffierà a bora che potrà essere sostenuta a Trieste, moderata invece sul resto della costa e sulle zone orientali. Furto e danni a Trieste al locale Outstanding, una caffetteria inclusiva dove lavorano persone provenienti dall'area del disagio sociale, affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Il locale si trova in località Prosecco, sul Carso Triestino. È stata sfondata la porta d'ingresso e rubato il fondo cassa e le mance che clienti hanno lasciato ai ragazzi che lavorano nel locale. La titolare racconta della grande ondata di affetto dopo il furto. Molti ci hanno chiesto, spiega, come possono aiutare e l'abbiamo indicato anche sui social. Quello che più ci serve è sentire la vicinanza della gente dopo questo brutto episodio. Studiare le conoscenze, le attitudini e i comportamenti degli italiani verso il vivere sostenibile è l'obiettivo di una ricerca nazionale coordinata dalla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. L'indagine, durata 6 mesi, ha interpellato 420 persone in tutto il paese. Emerge che dei 22 oggetti, tra cui detergenti ecologici, shampoo solido, carta da forno riciclabile, abiti di seconda mano e 18 comportamenti proposti, tra cui coltivare un orto personale, consumare frutta di stagione, utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, fare la raccolta differenziata e ridurre i consumi energetici, complessivamente l'87% sono stati ritenuti influenti sulla sostenibilità. Soltanto il 67% di essi viene però adottato dalle persone intervistate. I principali motivi del loro non utilizzo erano la scarsa praticità, la loro disponibilità e il loro costo. Tra i campi in cui la percezione della sostenibilità è più bassa ci sono quelli della cura personale, 77%, e dei trasporti, 85%, che si sono confermati gli ambiti in cui questi comportamenti sono stati meno adottati. Il giudice costituzionale Roberto Nicola Cassinelli ha incontrato un centinaio di studenti dell'Istituto Kennedy di Pordenone per raccontare che cos'è e a che cosa serve la consulta. Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole d'Italia fa tappa a Pordenone. Il giudice Roberto Nicola Cassinelli ha incontrato un centinaio di studenti dell'Istituto Kennedy per raccontare che cos'è e a cosa serve la consulta. Io spero che resti, se sarò capace, a trasmettere l'entusiasmo e la voglia di affermare i contenuti che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione, che è una Costituzione sempre bella, sempre valida, che ha dei principi della libertà dell'individuo, della valorizzazione del singolo che sono importanti, ma al contempo ovviamente c'è all'interno dei nostri principi un forte richiamo a quello che è la collettività. L'inizio Iniziativa che in quest'anno scolastico ha già toccato una decina di scuole dal nord al sud del paese e un progetto avviato nel 2018 con l'obiettivo di far conoscere la Corte Costituzionale e il suo ruolo di garanzia e di difesa dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. Quando sono stato eletto dal Parlamento insieme a tre illustri colleghi il 13 febbraio alla Corte Costituzionale, ho ricevuto, come sempre accade in queste circostanze, tanti messaggi di congratulazione. La cosa che mi ha colpito è che tantissimi messaggi che pervenivano non da giovani ma da persone adulte inserite nel mondo del lavoro mi dicevano: complimenti, non so cos'è la Corte, non so cosa fa, ma ho capito che è una cosa molto importante. Quindi il mio compito sarà quello di far capire non solo ai ragazzi l'importanza della Corte e quello che è la sua funzione fondamentale, che è una funzione di garanzia e di equilibrio per tutto il Paese. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Duino Aurisina ha deciso di anticipare a oggi, 24 aprile, le celebrazioni in occasione della festa della Liberazione per agevolare la presenza dei cittadini alla cerimonia solenne alla risiera di San Sabba prevista domani. Come da consuetudine, una delegazione guidata dal sindaco renderà omaggio ai monumenti presenti nelle diverse località del comune, partendo alle 17 davanti al municipio di Aurisina. E alla vigilia della festa della Liberazione a Trieste il Comitato Pace, Convivenza, Solidarietà e Diritti Danilo Dolci organizza un concerto con diversi gruppi musicali del territorio, oltre a letture e testimonianze per la pace, dalle 19.30 in piazza Oberdan. Sempre a Trieste, il Comitato di San Giovanni Colonia per la celebrazione dei caduti nella resistenza antifascista terrà una commemorazione presso la lapide del Narodny Dom, con un intervento a riflessione di Denis Doliak, in strada di Guardiella 25 alle ore 17.30. A Udine invece quest'anno si commemorano i 110 anni del genocidio armeno, la celebrazione alle 18 al Parco degli Armeni, a Udine. 1.400.000 euro dalla Regione per il settore legno arredo, un nuovo bando per l'internazionalizzazione e l'export annunciato dall'assessore regionale Bini, rivolto alle imprese del settore per sostenere la loro presenza sui mercati esteri. I progetti finanziabili riguardano la consulenza strategica, le attività propedeutiche agli investimenti e le forme di promozione sui mercati internazionali, come la partecipazione a fiere internazionali, la promozione commerciale all'estero, lo sviluppo di reti distributive e attività di marketing su scala globale. Le spese ammissibili vanno da un minimo di 50 a un massimo di 150.000 euro. Il contributo sarà concesso in misura diversa, in modo da agevolare le micro e piccole imprese, per le quali la copertura prevista arriva al 45%. Per le medie sarà del 35%, mentre per le grandi aziende del 25%. Le domande di incentivi potranno essere presentate dal 28 maggio al 30 giugno 2025. Il civico orto botanico di Trieste è nato per motivi nautici legati al porto, è un luogo dove si conserva la biodiversità anche in ambiente urbano. Il civico orto botanico di Trieste è nato nel 1842 per esigenze legate allo sviluppo del porto dell'impero asburgico. Si cercavano le varietà arboree più adeguate per rimboschire il carso in modo da attutire la bora che nelle sue giornate più arrabbiate fermava l'attività portuale e i suoi commerci. Nel 2025 l'orto coltiva le piante velenose medicali per mantenerne i semi, propone alcune specie esotiche, ma è soprattutto un'oasi di biodiversità nel centro della città. Queste vasche che erano state progettate per le piante acquatiche, qui a fine estate, a metà estate, abbiamo dei bellissimi lotti, delle ninfee e possiamo vedere delle altre piante tipiche degli stagni e delle paludi, in realtà sono l'unico posto rimasto in centro a Trieste che ospita degli animali degli stagni. Qui abbiamo il rospo comune del vicino Bosco Farnetto, abbiamo il tritone crestato, il tritone punteggiato, la rana verde, che ancora possono essere viste in questa zona. Il canone estetico in un orto botanico votato alla biodiversità non è propriamente quello dei parchi, delle ville, ci spiega ancora Nicola Bressi, curatore scientifico dei musei civici. Noi ecologi dobbiamo sempre ricordare che in un bosco, in un ambiente naturale, anche in un giardino, l'albero morto vale quanto l'albero vivo, perché ha un sacco di utilizzi, funghi, picchi, scoiattoli, trovano cibo e rifugio negli alberi morti. Gli alberi morti, lentamente decomponendosi, diventano terreno per altri alberi vivi. Ovviamente qui l'abbiamo usato anche come base per delle belle rose rampicanti. Una bella catasta di legna dove si formano dei fori da parte dei picchi degli animali che mangiano il legno, sono poi utilizzate delle api selvatiche per nidificare. Api selvatiche che, ricordiamo, nonostante la parola selvatichezza, sono molto meno aggressive delle api domestiche, delle api da miele, e anzi alcune proprio non pungono mai. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione comunale di Azzano Decimo ha deciso di adottare un protocollo di biomonitoraggio attraverso le api per valutare la salubrità ambientale e in particolare l'impatto dell'attività dell'uomo sul nostro territorio. Le api sono strettamente collegate alla sopravvivenza umana e vengono definite sentinelle ambientali perché la loro assenza in un territorio è già un'informazione che indica che quell'ambiente è sicuramente già alterato e o inquinato. Lo studio di biomonitoraggio attraverso le api e i prodotti apistici è un risultato utile anche per dare indicazioni relativamente alla compatibilità di futuri insediamenti industriali e alle sostanze chimiche su cui porre maggiore attenzione da parte della collettività. Siamo agli spettacoli, il ritorno del musical Mamma Mia al Rossetti di Trieste, le canzoni degli ABBA, la storia resa celebre anche dal film con Meryl Streep, le atmosfere anni 70, un cast internazionale di assoluto livello ed è di nuovo un grande successo. Alla prima al Rossetti oltre 10 minuti di applausi, repliche fino a domenica. Una madre dallo spirito hippie, una figlia indomita come lei che si sta per sposare e poi tre possibili padri, un'isola greca e successi senza tempo degli ABBA. Dalla West End di Londra torna a Rossetti di Trieste nella versione originale inglese, dopo le applaudite edizioni del 2008 e 2015, il musical Mamma Mia. Storia di una rinascita nel segno dell'amore, una festa sul palco e tra il pubblico, che ha tributato alla compagnia di 27 artisti, cantanti e ballerini da tutto il mondo, applausi e ovazioni. A Trieste le uniche tappe in Italia, oltre agli Arcimboldi di Milano, per festeggiare i 25 anni dal primo debutto nel West End di Londra. E poi 65 milioni di spettatori in tutto il mondo, con 50 produzioni in 16 lingue diverse. Una festa, si diceva, da Mamma Mia, Dancing Queen, le canzoni, il ritmo, l'allegria, la leggerezza, i costumi e la musica dal vivo. Non manca niente a questo capolavoro musicale scritto da Katherine Johnson, diretto da Phyllida Lloyd, che da un quarto di secolo colleziona premi e successi. Nel 2008 la versione cinematografica con una strepitosa Meryl Streep nei panni della madre, donna. La figlia, Sophie, in procinto di sposarsi, vuole conoscere il padre. Tre possibili candidati, ex amori di una notte in una splendida isola della Grecia, dove la madre, donna, decide di fermarsi e di creare un piccolo albergo. Un inno alla vita e all'amore, alla forza delle donne e alla musica senza tempo. Di nuovo a Rossetti di Trieste fino a domenica. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. Con il Far East Film Festival che inizia oggi, arriva a Udine anche l'opera di uno dei più grandi maestri del manga giapponese. Sarà inaugurata il 26 aprile a Casa Cavazzini, la prima antologica in Italia di Shigeru Mizuki. Sentiamo il curatore Vincenzo Filosa. Shigeru Mizuki era uno dei più importanti mangaka della storia del manga moderno e contemporaneo. È stato il mangaka che più di tutti, anche mi avviso più di Osamu Tezuka, ha saputo raccontare la storia e lo spirito di un popolo e di una nazione che è quella del Giappone. Non solo del Giappone degli suoi tempi, che è quella dell'immediato dopoguerra, ma anche quella del Giappone del tempo che fu. Il Giappone che è più tradizionale, quello legato alle credenze, al folklore dei villaggi contadini, del Giappone prima dell'arrivo degli occidentali. Ecco. In un periodo in cui il folklore giapponese, le credenze venivano bollate come mere superstizioni, Mizuki ha trovato la strada per recuperare questi miti, queste leggende e riproporli in una forma che fosse accessibile a lettori di qualunque età, di qualunque genere, eventualmente poi anche di qualsiasi nazionalità, dimostrando che potessero farsi veicolo, canale di una spiritualità, di un senso di spiritualità e di comunità molto profondo. Il materiale della mostra sono tavole che arrivano per la prima volta in Italia? Sì, questa è una prima assoluta in Italia, ma una seconda assoluta occidentale in un certo senso, perché prima di questa mostra le tavole, gli altri originali di Mizuki sono stati esposti solamente in occasione del Festival di Angoulême, che è il festival di fumetto forse più importante insieme a Lucca Comics in Europa, E quindi sì, siamo orgogliosissimi di ospitare le tavole di questo maestro, perché noi lo consideriamo uno stimolo importante alla ricerca, allo studio, alla comprensione del folklore di tutte le nazioni, no? In uno spirito di condivisione costante, sempre rinnovato e aggiornato, come dovrebbe essere. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, ieri a Torino quinta sconfitta di fila per l'Udinese, battuta dai Granata per 2-0, le reti di Adams nel primo tempo dopo un gol annullato ad Attà per fuorigioco e di Dembélé nella ripresa. Nel dopogara il direttore Gianluca Nani sottolinea l'importanza delle assenze, in particolare Toven e Lucca, ma per crescere, dice, non bisogna crearsi alibi. Sentiamo. La squadra sono i primi a essere estremamente dispiaciuti, ci dispiace per i tifosi, ci hanno seguito fino a qui due volte, lunedì e oggi, insomma, per la proprietà, per tutti quanti che mettono cuore e anima con l'Udinese, quindi insomma è un momento che noi dobbiamo assolutamente girare, perché vogliamo finire bene, perché per finire bene e poi ripartire bene, siamo una squadra che vuole crescere, che vuole andare avanti e non dobbiamo creare alibi. Oggi abbiamo giocato senza tutti e quattro gli attaccanti, quindi insomma quando disinfortunano tutti gli giocatori dello stesso reparto fai fatica. Iker Bravo è un centrocampista offensivo, ha fatto molto bene, si è sacrificato, ma non è il suo ruolo. E Davis e Sanchez avevano 10 minuti, li abbiamo recuperati a forza. Ma l'ultima cosa che dobbiamo fare è creare degli alibi, dobbiamo essere più bravi delle situazioni sfavorevoli, più bravi degli errori e più bravi anche dei momenti negativi. Se tu vuoi crescere, vuoi avere ambizione, devi andare oltre tutto questo. In questo momento siamo solo estremamente dispiaciuti perché, ripeto, per il mister, per i giocatori, per tutti coloro che ci mettono anima, cuore, tempo, dedizione, per tutti quanti noi, e quindi insomma è un qualche cosa che non ci aspettavamo, che non volevamo, perché ripeto, fino a marzo abbiamo fatto un campionato ottimo, quindi ora dobbiamo ripartire nelle ultime partite immediatamente, con forza, con decisione. Tutto pronto per la 21esima edizione del torneo delle nazioni di calcio giovanile per nazionali, riservato alla categoria Under 15. Come da tradizione, rispettando lo spirito transfrontaliero con cui l'evento è nato, le partite si giocheranno in alcuni stadi e campi del Friuli Venezia Giulia, dell'Austria e della Slovenia. L'Italia debutterà domani, 25 aprile, a Gradisca di Sonzo contro il Galles alle ore 18. 12:52:20, il giornale si chiude qui grazie alla collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Roberto Cavallari, in segreteria Daniela Sossi. Prossima edizione del giornale alle 15 da Daniele Lettige e Sebastiano Franco, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.